in primo piano. Buona giornata e soprattutto buon Ferragosto da Mauro Meazza. Benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24. Vi do segnalazione di quello che viene riportato dai giornali, non solo le notizie della cronaca battente, come si dice, quelle che abbiamo appena ascoltato anche nel giornale radio, ma anche qualche approfondimento. Oggi giornata, propizia per anche qualche contributo di riflessione, la giornata di Ferragosto. Poi, come sapete, domani i quotidiani non saranno in edicola. Il Ferragosto è uno dei pochi giorni in cui i giornalisti dei quotidiani non lavorano, non fanno, appunto, non realizzano i giornali, quindi anche la nostra rassegna stampa tornerà poi giovedì. E allora, naturalmente, la vicenda di Regeni, con questo ritorno dell'ambasciatore al Cairo, è uno dei temi principali per le aperture, per i titoli più importanti dei giornali, così come anche però le vicende economiche e internazionali legate in qualche modo tutte alla Cina. E poi naturalmente le polemiche ancora sul terremoto, con le rassicurazioni venute ieri, l'abbiamo ascoltato prima nel GR, dal Premier Gentiloni, che appunto ha assicurato anche qualche disponibilità a rivedere il meccanismo attualmente fissato per gli aiuti alla ricostruzione. Voglio cominciare però dalle questioni, per così dire, più legate alla politica internazionale e all'economia internazionale. Avvenire riassume le vicende internazionali con un titolo che è il suo titolo principale, che è Ombre cinesi, e riunisce così una serie di cose. Trump, appunto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che annuncia sanzioni a Pechino per la violazione dei brevetti, e dall'altra parte questa offerta pare di Great Wall, una delle case automobilistiche cinesi, ma forse anche da parte di altre case automobilistiche, per Fiat Chrysler, cioè insomma quella che noi italiani abbiamo per tanti anni chiamato Fiat. Le due vicende, appunto, delle che sono legate da una parte sono legate alla Cina, da una parte riguardano gli Stati Uniti, dall'altra riguardano invece l'economia italiana e soprattutto FCA, sono anche naturalmente sul Sole 24 Ore, e il titolo, diciamo, quasi più importante, nel senso è uno dei titoli di prima pagina, è proprio dedicato a questa offerta cinese, offerta che è trapelata ieri, secondo alcune indiscrezioni che vengono da Automotive News, di interesse di alcuni gruppi cinesi. Pare che un primo contatto però sia andato per il momento con un nulla di fatto. La borsa in ogni caso ci crede, scommette sull'offerta cinese, così riferiamo sul Sole 24 Ore di oggi. E ieri il titolo FCA ha chiuso in rialzo dell'8,15%, che è una percentuale molto molto alta per questo tipo di indicazioni. Il titolo principale invece del Sole 24 Ore di oggi è quello dedicato alle sanatorie fiscali, il calcolo tra l'altro in 10 anni di sanatorie, se volete le chiamiamo anche condoni, insomma speriamo che nessuno si risenta, in 10 anni una dote da 35 miliardi. Insomma, gli incassi per un buon terzo della lotta all'evasione sono venuti appunto in buona parte dalle sanatorie, dalle misure straordinarie di ritorno in bonus o condoni, se volete farla più semplice. Poi dal Sole 24 Ore ancora una notizia che riguarda Roma, capitale senza rating, scrive Isabella Bufacchi, perché il comune appunto ha deciso di fare a meno dell'ultimo rating pubblico che le restava. Il rating, come sapete, la valutazione da parte delle agenzie internazionali sull'affidabilità di un debitore. L'ultimo rating pubblico che restava a Roma era la tripla B di Fitch, ma la capitale ha deciso di rinunciarvi, e di questo riferisce appunto Isabella Bufacchi, addentrandosi poi anche nell'andamento del bilancio, come sappiamo in un momento non facile, anzi difficilissimo, del comune di Roma. Torniamo però un attimo alla Fiat e alla FCA e alla Cina, con la pagina 5 del Sole 24 Ore, ma la notizia ovviamente, come vi riferivo prima dal titolo di Avvenire, è su tutti i giornali, la potete trovare trattata nei modi che preferite. FCA, la borsa scommette sull'interesse cinese, è il titolo dell'articolo di Laura Galvagni. Laura Galvagni ricorda che già in passato Sergio Marchionne non ha mai fatto mistero della volontà di traghettare la compagnia verso un'aggregazione, quindi fusioni o aggregazioni, che un'aggregazione che ne modifichi sostanzialmente il perimetro, con l'obiettivo di mantenerla fortemente competitiva in un settore dove le economie di scala sono cruciali. Ora le ultime indiscrezioni puntano dritte verso la Cina. Una delegazione di manager cinesi sarebbe stata vista negli uffici di Auburn Hills a Detroit. Altri colloqui si sarebbero tenuti ai piedi della Grande Muraglia. Con quale finalità è ancora tutto da verificare. Gli indizi, come vi dicevo, puntano verso la Great Motors, ma al momento non è escluso che altri colossi siano interessati. E allora, stiamo parlando di automobili, quale occasione migliore per lanciare il traffico? Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta In Primo Piano. Bentornati da Mauro Meazza, ancora un buon Ferragosto a tutti voi che siete all'ascolto, un buon Ferragosto naturalmente anche a Paolo Corleoni questa mattina in regia, indispensabile per la messa in onda della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che comunque, pur essendo Ferragosto, potete sempre scriverci, 349-238-6666 è il numero per i vostri sms o anche messaggi di WhatsApp. Stavamo occupandoci prima dell'interruzione per la viabilità, per il traffico, dell'offerta dei contatti per dei gruppi cinesi, appunto Great Wall, ma forse non solo Great Wall, per FCA, per Fiat Chrysler. E dal Sole 24 Ore, l'articolo di Laura Galvagni, vi stavo appunto riferendo che al momento non è escluso, così scrive la collega Galvagni, che altri colossi siano interessati ad avviare contatti come la Dongfeng Motor o la Zhejiang Geely. Stando ai rumor, ai pettegolezzi, insomma, dalla Cina sarebbe arrivata almeno un'offerta per FCA, ma sarebbe stata rifiutata perché ritenuta non sufficiente. Questo la parte che riguarda, diciamo così, la vicenda, il fronte italiano, la sponda italiana della parte cinese. L'altra parte invece è quella della americana, cioè l'arma dei dazi per fermare Kim, e qui la vicenda è più complicata. Allora, che succede? Sostanzialmente, come sappiamo tutti, c'è un braccio di ferro fatto di minacce anche molto pesanti e molto preoccupanti tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti, con queste minacce di attacco con missili nucleari da parte della Corea del Nord, specialmente nella base di Guam, la più vicina appunto al paese, nella base americana di Guam. E ora c'è una sponda cercata da parte degli Stati Uniti con la Cina, una sponda che però usa un po' il metodo di alternato di aggressività e anche blandizie. Allora, giovedì, riferisce Gianluca Di Don Francesco oggi sul Sole 24 Ore, lo stesso Trump ha collegato la crisi nordcoreana al deficit commerciale statunitense verso la Cina. Che c'entra il deficit commerciale statunitense della Cina rispetto alla crisi con la Corea del Nord? La spiegazione è che appunto Trump sta cercando una sponda, una collaborazione molto più decisa da parte dei cinesi contro la Corea del Nord e Kim, e questo fare pressione si consostanzia anche in questa iniziativa sul copyright. Ogni anno, così ha detto il presidente degli Stati Uniti, perdiamo centinaia di miliardi di dollari nel commercio con la Cina. I cinesi sanno come mi sento al riguardo, questa cosa finirà. Ma se la Cina ci aiuta, il mio atteggiamento sul commercio sarà molto diverso. Insomma, cercare una sponda cinese da parte degli Stati Uniti porta anche a dei riflessi commerciali, e sono quelli di cui riferiamo oggi sul Sole 24 Ore. Venendo invece a cose di casa nostra, oltre a ricordarvi il nostro titolo più importante, è quello dedicato alle sanatorie fiscali. Oggi capisco che è Ferragosto, ci prendiamo tutti un momento di pausa anche da questi obblighi, da questi adempimenti tributari, però insomma ci sono ancora in corso, sono ancora aperti i termini per aderire alla rottamazione delle liti, e chissà se poi arriveranno novità anche per la rottamazione delle cartelle, anche quelle peraltro della mai dimenticata voluntary disclosure, o voluntary disclosure se volete dirla all'Angelino. Che è successo in Italia? Che è arrivata in Gazzetta Ufficiale la legge sulla concorrenza, ha rimbalzato per anni tra Camera e Senato, finalmente è arrivata. Ricordo che dovrebbe essere una legge che viene varata ogni anno, questa ce ne ha messi più o meno 4, e che cambia, che cosa cambia per noi? Beh, cambia parecchio per le professioni, per quanto riguarda il rapporto con i professionisti ci sarà anche questo obbligo di preventivo, ma poi ci sono anche delle novità per l'assicurazione del RC auto, perché potrebbe diventare meno complicato riuscire a comparare, a confrontare le polizze. Tutte le novità che sono in arrivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge sulla concorrenza, le trovate riassunte sul Sole 24 Ore oggi a pagina 6. Vi do un'ultima segnalazione. Come sapete, se ci sono degli ascoltatori abituali di questa rassegna stampa al mattino tra il lunedì e il venerdì, sapete che il martedì, lo dico sempre ad Alessandro Milan, è il giorno del condominio, quindi ci sono anche oggi, pur essendo Ferragosto, è il giorno del condominio, ci sono una serie di indicazioni, di articoli sul condominio. Vi segnalo il titolo più importante in materia, lo trovate a pagina 19, la Cassazione che ha confermato che il furto dell'elettricità in condominio è reato. Bella novità, direte voi. Beh, in realtà per lo stato di indigenza in qualche modo c'era una possibilità di tolleranza, permettiamola così, ma la Cassazione ha deciso che questa condomina che si era allacciata a una plafoniera del condominio e sfruttava appunto l'elettricità condominiale per casa sua ha commesso un reato. Si è arrivati fino in Cassazione per stabilirlo, lo riferiamo negli articoli dedicati al condominio che trovate oggi, essendo martedì, sulle pagine del Sole 24 Ore. Resto sulle questioni invece internazionali con Avvenire, perché Avvenire riporta una corrispondenza che è di Pier Giorgio Pescali, spero di non sbagliare l'accento del collega, che scrive da Pyongyang, quindi proprio dalla Corea del Nord. È un reportage che trovate a pagina 6 di Avvenire. Povertà, pannelli solari, parabole TV, la resilienza del popolo nordcoreano. Spuntano i primi mercati privati, lo sviluppo parallelo, tra virgolette, di Kim. Spiega Pier Giorgio Pescali che si trova in un piccolo paesino di campagna vicino a Wonsan, alloggia in un bed and breakfast familiare e racconta appunto questo, che è uno dei primi esperimenti di economia privata concessi dal governo. Devono essere famiglie dall'indiscussa fedeltà al regime, però è anche un modo, vuole essere anche un modo per avvicinare gli stranieri al reale modo di vita del popolo nordcoreano. Come molte delle case in Nord Corea, anche questa ha un impianto fotovoltaico per sopravvivere ai blackout energetici. E nei mercati privati che ormai sorgono in ogni distretto, i pannelli solari sono, insieme agli elettrodomestici, i prodotti più ricercati. Costano tantissimo, spiega una contadina della cooperativa agricola di Yamhung, ma sono ormai indispensabili. E accanto ai mercati tollerati, ai mercati privati tollerati, ci sono naturalmente anche i mercati non autorizzati, che tuttavia sono, spiega appunto Pier Giorgio Pescali nella sua corrispondenza su Avvenire, oramai non solo tollerati dalle autorità ma anche frequentati dalle stesse autorità. Il reportage lo trovate, ve lo ricordo, su Avvenire, un racconto dall'interno della Corea del Nord, il paese che in queste settimane estive ha occupato gran parte, anche perché no, delle nostre preoccupazioni. Vicenda internazionale su tutti i giornali, naturalmente, come titolo anche principale quella del caso Regeni. La svolta sul caso Regeni è il titolo della Stampa. L'ambasciatore torna al Cairo. Gentiloni dice: torno al Cairo e cercherà la verità. Ma come avete ascoltato Anche nel corso del giornale radio ci sono delle critiche fortissime da parte della famiglia, che ritiene che non sia successo sostanzialmente nulla di nuovo, sono state solo trasferite delle carte, peraltro ancora da tradurre dall'arabo, sono state trasferite delle carte, e questo è bastato, insomma, come gesto di buona volontà per decidere il ritorno dell'ambasciatore italiano al Cairo. Repubblica pure titola, come titolo principale, appunto, su Regeni, l'ambasciatore torna al Cairo, i genitori siamo indignati, è una resa, è una mossa collegata all'emergenza in Libia, riassume il titolo di Repubblica. La Farnesina dice ci sono progressi nelle indagini, ma è polemica. La vicenda Regeni occupa le primissime pagine di Repubblica, i genitori appunto hanno parlato di una resa incondizionata, e riferisce Giuliano Foschini a pagina 2 di Repubblica che questo plico di documenti in arabo spedito alla vigilia di Ferragosto è servito a normalizzare un anno e mezzo dopo i rapporti tra Italia ed Egitto. La Procura Generale del Cairo ha inviato infatti ieri mattina ai colleghi romani nuovi atti di indagine sulla morte di Giulio Regeni, e poche ore dopo il ministro degli esteri Angelino Alfano, alla luce degli sviluppi, è il virgolettato, ha annunciato il rientro dell'ambasciatore italiano in Egitto, Giampaolo Cantini. Svolta brusca, scrive Foschini, nell'aria da mesi per ragioni politiche, ma rallentata fin qui dalla scarsa collaborazione degli investigatori egiziani, che ieri hanno voluto compiere un gesto di distensione, seppure però senza alcun rilevante passo in avanti nelle indagini. Siamo indignati, dicono i genitori di Giulio, Paola e Claudio Regeni, la decisione di rimandare ora nell'obnubilamento di Ferragosto l'ambasciatore in Egitto ha il sapore di una resa confezionata ad arte, e la verità resta ancora lontana. Ecco, poi l'articolo prosegue spiegando tra l'altro che appunto queste carte che sono state messe a disposizione da parte delle autorità egiziane sono ancora tutte da vagliare, riguardano soprattutto gli interrogatori che sono stati compiuti per i 5 ladri che erano stati trovati in possesso del passaporto di Giulio, quindi non si sa bene ancora cosa contenga, però appunto questo ha segnato, a giudizio del nostro governo, un cambio di rotta, un cambio di prospettiva nei rapporti col Cairo. Questo è il passaggio. Ma poi Annalisa Cuzzo Crea nel retroscena, sempre su Repubblica, spiega come è una tela in qualche modo del disgelo con Al-Sisi, con le autorità egiziane, perché si possa avere anche una posizione più forte, più determinata sui migranti e sulla Libia. Ma dei migranti anche si parla molto anche oggi sui giornali. Vi segnalo, prima di fermarci qualche istante per la pubblicità, quello che scrive Mattia Feltri nel suo Buongiorno sulla Stampa: il pericolo di nome Cindy è la storia di una migrante, possiamo chiamarla così, che peraltro era perfettamente integrata, perfettamente no, è l'avverbio sbagliato perché mancava un dettaglio, ma questo vuole essere solo un piccolo assaggio, perché vi prometto di leggere il Buongiorno di Mattia Feltri non appena si rientra dalla pubblicità. In primo piano. E ancora un buon Ferragosto da Mauro Meazza, bentornati alla nostra rassegna stampa. Buon Ferragosto naturalmente ancora a Paolo Corleoni di là dal vetro, indispensabile perché tutto questo vada in onda. Grazie a chi ci sta scrivendo, 349-238-6666, sms oppure whatsapp come preferite. Un ascoltatore gentilissimo mi manda un aiuto sonoro per la corretta pronuncia di Disclosure, io lo ringrazio. La mia voleva essere però anche una citazione, come dire, della Voluntary Disclosure inviataci da uno spiritoso ascoltatore un po' di tempo fa, proprio per prendere in giro questo utilizzo, insomma questo fiorire di termini inglesi anche su vicende normative assolutamente italiane, appunto quella del rientro dei capitali, della regolarizzazione dei capitali detenuti illecitamente dal punto di vista fiscale all'estero. Allora, vi avevo promesso di leggervi questo Buongiorno di Mattia Feltri altri dalla stampa di oggi, perché in qualche modo ne vale la pena. Ve ne do rapida lettura. Scrive Mattia Feltri: non è vero che in Italia non si combatte con severità l'immigrazione. Sentite questa storia. Elisabetta vive a Roma, ha due figli, Tommasi 12 anni, Irene di 10. Irene ha un'età mentale di un anno e mezzo, gravissimi ritardi mentali, invalidità del 100%. La mamma se n'è accorta perché la bimba cresceva ma non sorrideva, non sapeva stare seduta né muoversi. Oggi Irene è epilettica, porta il pannolino, si esprime con rari versi e per stare con i figli Elisabetta si è licenziata, ha preso una babysitter e negli anni ne ha cambiate 7 o 8. Alcune se ne sono andate perché non ce la facevano più, altre erano inadeguate. Irene ha bisogno di dedizione totale e amore incondizionato. Poi è arrivata Cindy, che è indiana. Ha studiato a Pisa. Ha fatto per 20 anni la suora in Italia. E infine ha deciso di lasciare l'ordine monastico, ma l'anima è rimasta la stessa. Elisabetta dice che fra Irene e Cindy si è instaurato un rapporto speciale. Irene sorride un po' di più, padroneggia un po' meglio il corpo. A casa è percorsa da un venticello di serenità. Finché Cindy non è andata in questura per cambiare il permesso di soggiorno. Scaduto quello per motivi religiosi, appunto si trattava di una religiosa, di una suora in Italia, ripeto, da 20 anni, riferisce Feltri, scaduto quello per motivi religiosi, ne chiedeva uno per motivi di lavoro. È assunta, paga i contributi, ha residenza. E invece no, non si può. Le hanno detto che c'è poco da fare, è la legge, riceverà il decreto di espulsione, senza dubbio. E ci saremo liberati di questa pericolosa clandestina. Tra parentesi, chiude Mattia Feltri, il nome è di fantasia, ma la storia è vera. Dovesse interessare a qualche ministro, e noi volentieri l'abbiamo letta, appunto, dovesse interessare a qualche ministro. A volte la burocrazia ha veramente dei suoi percorsi tortuosi che, parafrasando il grande filosofo, si potrebbe dire la ragione non riesce a conoscere. Cambiamo argomento e veniamo alla vicenda, appunto, a proposito di percorsi tortuosi e non sempre comprensibili del sisma, delle popolazioni colpite dal terremoto in centro Italia e della questione delle tasse. Questo sgravio è sufficiente, non è sufficiente? La polemica, come vi riferivo già ieri, è stata aperta da alcune dichiarazioni del sindaco sulla reale portata del credito d'imposta, che non è l'esenzione che era stata promessa. Il Messaggero continua giustamente, correttamente, a tenere in massima evidenza questa vicenda. Sisma, due livelli per le tasse è il titolo di apertura, la frase è un virgolettato di quanto detto da Gentiloni ad Arquata. Gentiloni ad Arquata: dopo le proteste dei sindaci, la legge sulle esenzioni può essere modificata. Spunta allora un piano per una imposizione fiscale a doppia velocità per i paesi con le macerie e per quelli meno colpiti. Ora, cercando di stare come dire, il più possibile su questioni chiare e comprensibili, che cosa è successo? Con la manovra di primavera è stato deciso un intervento per una fascia decisamente ampia di comuni con delle zone franche. A queste zone franche è stato assegnato un credito d'imposta e con un tetto di utilizzo. Il sindaco però di Amatrice ha contestato dicendo: no, in realtà era stata promessa una totale esenzione. Da lì poi, appunto, le circolari applicative da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ugualmente contestate, ma la circolare, lo dicevamo già ieri, non può intervenire e cambiare la legge, quindi servirà una modifica di legge. Dall'altra parte, ha segnalato il Ministero proprio dai giornali di ieri, ci sono dei vincoli europei, alcuni interventi non possono essere più ampi di un tanto se non con il permesso dell'Unione Europea. Si tratta di rientrare, appunto, in quel regime che si chiama del de minimis. Ma adesso mi sembra che, essendo Ferragosto, l'abbiamo fatta pure troppo lunga, me ne scuso. Torno sulla vicenda di ieri. Sisma, Gentiloni ai sindaci, pronti a riparlare di tasse, così il titolo di pagina 2 sul Messaggero. E l'ipotesi di esenzione a due velocità per aiutare i comuni più colpiti. Già domani ci sarà un vertice degli amministratori, si parla di sgravi del 100% ai 55 comuni con la zona rossa, mentre per gli altri le agevolazioni dovrebbero essere inferiori. In arrivo poi delle correzioni alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, che è quella che poi ha fatto esplodere un po' tutto il caso. Sisma nella parte appunto della visita che compiuta ieri da Paolo Gentiloni in Arquata. Gentiloni ha anche detto: sarei pazzo se suggerissi che ci sono delle difficoltà. Il miracolo, tra virgolette, delle macerie fatte sparire dai militari in realtà è stato rimosso appena il 6%. Anche questa lentezza nella ricostruzione, nello sgombero dalle macerie, è un altro degli aspetti che sta esasperando giustamente le popolazioni e anche preoccupando tutti noi che, anche se non colpiti direttamente dal terremoto, ci chiediamo come sia possibile che dopo un anno il procedimento di sgombero vada avanti così a rilento, o almeno a noi pare che vada a rilento. Oggi su qualche quotidiano si riferisce che si sta facendo tutto il possibile, ma che appunto i tempi tecnici di smaltimento sono complicati. Il Messaggero oggi poi ha un'altra, mi verrebbe da dire una chicca, se non fosse non potesse suonare inutilmente ironico. Le casette, i moduli abitativi temporanei, hanno una data di scadenza. Scrive Italo Carmignani, perché sono garantite solo per 5 anni. E allora riferisce d'Arquata: come latte, zuppe in scatola o le pile hanno già una scadenza, 5 anni. Il cronometro della ricostruzione quindi non è appeso al collo del governo, ma al primo chiodo delle casette del dopo terremoto, le famose SAE. Quelle attese, maledette per i ritardi, benedette quando sono arrivate, sono garantite 5 anni, scaduto il termine. Nessuno sa bene cosa possa loro accadere. Ma non tutto viene per nuocere, le SAE sono al tempo stesso una soluzione per gli sfollati e un sollecito per chi deve ricostruire le abitazioni per sempre, cioè quelle a tempo indeterminato. E d'altra parte la loro temporaneità è scritta nel loro acronimo SAE, perché significa soluzioni abitative di emergenza. Ieri sono state consegnate le ultime casette proprio dal Premier Gentiloni, ne servono quasi 4.000, scrive sempre il Messaggero, e al momento sono state consegnate ai sindaci 534 casette, quindi procediamo lentamente. Le SAE ordinate sono 3.827, per dare il numero puntuale, procediamo lentamente anche con la assegnazione delle casette. Questo per quanto riguarda appunto la visita di Gentiloni nelle aree terremotate. L'ho riferita dal Messaggero, ma naturalmente la potete trovare anche su tutti gli altri quotidiani, dal Messaggero, perché, come vi dicevo, il Messaggero è proprio il quotidiano che per primo ha lanciato la polemica sulla entità degli aiuti, del regime fiscale di aiuti per i comuni colpiti dal terremoto. Resto ancora qualche minuto sul Messaggero, perché ritornando allora sull'emergenza dei migranti, c'è un colloquio con il capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, Mario Morcone, che prende una posizione per spiegare come non ci sarebbe una posizione, una ostilità preconcetta del governo italiano nei confronti delle organizzazioni non governative, delle ONG. Le accuse delle ONG sono polemiche sul nulla, dice in questo colloquio con Sara Menafra sul Messaggero, e poi nel titolo è appunto giusto che Tripoli coordini i soccorsi. La Libia ha il diritto di controllare una parte delle sue acque internazionali. Nessuno, spiega appunto in questo colloquio sul Messaggero, ha pensato di abbandonare né ha abbandonato il Mediterraneo. Se la Libia si stabilizza e ottiene di tornare alla normalità, anche con una propria area di search and rescue, cioè di vigilanza e di salvataggio, questo è un segnale positivo per tutti, a cominciare da chi vuole il bene dei migranti. Mario Morcone sceglie di abbandonare i panni del puro ruolo tecnico per rispondere alle polemiche che da giorni tengono nel mirino le scelte del Ministero dell'Interno in tema di immigrazione. prima il codice firmato con la maggioranza delle organizzazioni non governative, smussato, ovvero, dice lui, chiarito in alcuni punti, poi la scelta di alcune organizzazioni umanitarie di abbandonare il Mediterraneo. Tutto questo è stato attribuito alla volontà di interrompere gli sbarchi nella penisola a qualunque costo, anche a rischio di una nuova strage in mare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'ipotesi avvalorata anche da alcune organizzazioni non governative che il governo stesse tramando per limitare il ruolo delle organizzazioni umanitarie nel Mediterraneo. A questo risponde Morcone, che dice: sono chiacchiere sull'acqua. Noi non abbiamo chiesto all'Europa di rafforzare le missioni internazionali, non vogliamo impedire o limitare i soccorsi umanitari. C'è un clima contro di noi, costruito non so bene da chi e per quali fini, l'impressione che si voglia alterare la realtà rispetto a quanto accade davvero, anche perché in mare i volontari ci sono ancora. I soccorsi in mare hanno come tassello fondamentale la presenza delle navi militari Sophia e Triton, che già oggi insieme alla Guardia Costiera gestiscono la maggioranza dei salvataggi. Ma posto che gli arrivi sono calati, solo Medici Senza Frontiere ha deciso definitivamente di lasciare l'area, mentre altre organizzazioni hanno parlato di stop temporaneo. E poi spiega anche Morcone, appunto, che è il capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, che le tappe successive prevedono che nasca un centro di coordinamento dei soccorsi anche in Libia. È normale, dice, che la pacificazione del paese includa l'esistenza di un centro di soccorsi libico che coordina questi soccorsi nella sua area ed è abilitato a contattare Italia e Malta per decidere come gestire i salvataggi in mare. Tra l'altro, anche sulla accusa che, o sul sospetto che poi i migranti riportati a terra vengano torturati o privati dei diritti fondamentali, Morcone ribadisce: per noi è elemento fondamentale, punto di caduta su cui si regge tutto il sistema, che nascano quanto prima luoghi di accoglienza in Libia sotto il controllo dell'ONU. E il tema è stato discusso anche in un incontro con l'inviato delle Nazioni Unite Ghassan Salamé con i ministri degli interni Minniti e della difesa e degli esteri. Questo l'intervento, il colloquio, non si può parlare di un'intervista ma di un colloquio, che trovate sul Messaggero a proposito dell'emergenza migranti, colloquio con il capo di gabinetto Mario Morcone, capo di gabinetto al Ministero dell'Interno. E adesso noi invece ci fermiamo ancora per qualche istante, perché come sapete siamo quasi al 45esimo minuto e allora è il momento del traffico. In primo piano. Buongiorno e bentornati, buon Ferragosto ancora, ultima parte della nostra rassegna stampa. Abbiamo parlato prima di questo colloquio con Morcone, col capo di gabinetto del Viminale, che vi segnalo dal Messaggero, e ora invece vi segnalo una cosa dalla Stampa di oggi, che è il reportage di Domenico Quirico da Sabrata, nella roccaforte degli scafisti, dove inizia l'inferno dei migranti. Viaggio sulle spiagge di Sabrata, da cui partono i barconi disperati per l'Italia, tra trafficanti di uomini, mediatori e miliziani. Queste sono acque di nessuno. Il reportage di Domenico Quirico occupa le pagine 2 e 3 della Stampa di oggi e tra le altre cose, leggendo questo lungo reportage appunto, scopriamo che le regole del viaggio nel Mediterraneo sono cambiate e che questo cambio di regole è stato imposto proprio dai migranti. Ora non cercano più lo scafista direttamente, lo pagano e partono affidandosi a Dio. Non cercano più lo scafista direttamente, lo pagano e partono affidandosi a Dio. Non si fidano più. Troppi morti, troppi naufragi, troppi inganni. Allora ora c'è un mediatore sempre libico, riunisce i gruppi marocchini, senegalesi, eritrei, raccoglie il denaro e lo custodisce. Paga lo scafista solo quando una telefonata del migrante conferma che è arrivato in Italia o è al sicuro su una nave di soccorso. Insomma, una sorta di viaggio con l'assicurazione. Il reportage è molto interessante perché composto anche da tutta una serie di vicende e storie proprio di frequentazione di queste aree in Libia da cui partono i migranti. Si dice tra l'altro qui ogni spiaggia è un possibile porto di imbarco per cercare di imbarcarsi in mare. Intanto ha rallentato l'afflusso in questi ultimi giorni, un rallentamento consistente. Vedremo poi se è soltanto una tregua, come scrive qualche giornale oggi, o se invece c'è un cambiamento di qualche tipo in atto. Cambiamo completamente argomento e passiamo a una cosa che già vi segnalavo ieri, e cioè la posizione presa dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, che ha deciso di reagire, di replicare con le iniziative legali a disposizione, non solo sua ma di tutti i cittadini, contro le accuse, gli hate speech si chiamano ora, ma si potrebbe anche dire i messaggi di odio e aggressivi, ma aggressivi, ripeto, è dire poco, nei suoi confronti, di cui sono molto pieni i social network. Sulla posizione c'è un intervento di Filippo Facci su Libero, che in qualche modo argomenta proprio sia la stessa, quasi la stessa, non si capisce il tratto umano, il carattere della Presidente della Camera a richiamare queste posizioni. Ora non vi do lettura, ma vi segnalo appunto questo articolo a pagina 11 di Libero di Filippo Facci. Ecco perché la Boldrini è ricoperta di insulti. Laura vuol querelare chi la offende come se fosse lei il solo bersaglio. Dovrebbe chiedersi perché è così insopportabile. Naturalmente c'è la libertà di opinione per tutti. Il fatto di augurare lo stupro a una donna, anche trascurando il fatto che sia la presidente della Camera oppure no, non mi pare appunto che sia una di quelle cose che possono essere giustificate dal fatto che la donna in questione è antipatica. Questo comunque sulle pagine interne di Libero. Il titolo principale invece di Libero è dedicato alla vicenda Fiat Cina, di cui già vi abbiamo riferito sul Sole 24 Ore. Fiat fa gola ai cinesi, gialli, ricchi e ingordi, gruppi asiatici in trattativa per rilevare la casa automobilistica senza Alfa e Maserati. Ma visto che vi ho parlato della questione di Laura Boldrini e della sua decisione di reagire alle aggressioni verbali, discorsi aggressivi e odiosi su internet, allora vi segnalo che oggi con il Sole 24 Ore, già ve lo annunciavo ieri, abbiamo nell'agenda del professionista questa serie di pagine che stiamo pubblicando ogni giorno in agosto, l'analisi della nuova legge contro il cyberbullismo. È una norma pensata più che altro per proteggere i minorenni dai rischi del web. Tra i rischi del web ci sono appunto anche le affermazioni aggressive. Sappiamo che in qualche caso, fortunatamente raro, questo tipo di bullismo digitale ha anche portato a esiti infausti, come anche il suicidio della persona, del ragazzo o della ragazza che erano state prese di mira. La pagina la trovate a pagina 16 del Sole 24 Ore di oggi, spiega come funzionerà, ma funziona nel senso che è già operativa, la legge sul cyberbullismo. Perché dico funzionerà? Perché molto è dato alle scuole, che devono nominare un referente all'interno, devono essere quindi le prime a capire, insieme ovviamente alle famiglie, se c'è un episodio di bullismo, se c'è una persona vessata, un minorenne vessato. E già come forse ricorderete, c'è stato un primo intervento proprio di un questore che ha imposto la rimozione dei contenuti offensivi. La novità della legge, scrive Marisa Marraffino, è il tentativo di consegnare direttamente ai minorenni, cioè dai 14 anni in avanti, la possibilità di segnalare la presenza di un contenuto illecito al gestore del sito o del social network e inoltrare un reclamo al garante per la protezione dei dati personali. E poi cambia appunto la rete di protezione con l'istituzione di un referente scolastico al quale la legge demanda il difficile compito di coordinare iniziative di prevenzione e contrasto anche avvalendosi delle forze di polizia. Il tutto è appunto sulla pagina oggi dedicata dall'agenda del professionista del Sole 24 Ore sul cyberbullismo. Oh, naturalmente non potevano mancare, e infatti ci sono un po' su tutti i giornali, le polemiche sull'uccisione dell'orso. Mi sforzo di non essere ironico, però devo dire che dopo le vicende che abbiamo letto di migranti piuttosto che di bullismo, piuttosto che insomma di vicende preoccupanti come quelle dei terremotati, insomma le proteste, le minacce, le denunce contro il presidente orsicida, così riassume Libero, sembrano un pochino magari difficili da paragonare, ecco, caviamocela così. Animalisti in procura accusano Rossi di uccisione non necessaria dell'animale, e poi si dice che i turisti, scrive Ilaria Pedriali su Libero, disdicono le prenotazioni, al via anche un boicottaggio dei prodotti regionali. Un etologo sentito da Libero dice che non c'erano prove che quest'orsa fosse pericolosa, l'orsa KJ2, quindi la decisione è deprecabile perché le circostanze, secondo appunto l'etologo Roberto Marchesini, non sono chiare. Bene, quindi c'è anche questa mobilitazione di protesta per quanto riguarda l'uccisione dell'orso. Un po' tutti i giornali, essendo Ferragosto, ospitano anche quella che potremmo definire una buona notizia e che ho tenuto allora per ultima, cioè che il nostro paese è tornato ad essere il paese con il Ferragosto del tutto esaurito. Sono tornati i turisti anche italiani. Sul Sole 24 stiamo facendo anche una inchiesta proprio sul turismo nelle pagine di Impresa e Territori. Dal Corriere della Sera, ma la vicenda dell'ottimo andamento del Ferragosto è un po' su tutti i giornali, vi segnalo il dossier di Fausta Chiesa: Ferragosto riscopre il tutto esaurito, hotel pieni in montagna, pieni al mare e nelle città d'arte, tanti tedeschi e statunitensi. Secondo Federalberghi, appunto, il paese piace e altrove pagano i problemi di sicurezza. Certo, questo non è difficile da immaginare. Mare e monti sono i punti che vanno come sempre molto bene, ma anche molto richieste dagli stranieri sono le città d'arte, oltre alle classiche Roma, Venezia e Firenze, anche centri più piccoli, scrive Fausta Chiesa, come i borghi, sono in crescita. E poi c'è il turismo enogastronomico, che si conferma tra i principali prodotti richiesti dal turista, e cresce l'interesse per i laghi da parte di tedeschi e svizzeri, mentre gli inglesi amano i tour nel sud Italia. La costa amalfitana va di moda soprattutto tra gli spagnoli. E gli italiani? Anche loro stanno tornando. Secondo le previsioni di Federalberghi, i mesi estivi si chiuderanno con oltre 34 milioni di presenze di connazionali, il 56,6% della popolazione, un aumento del 3,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Spenderemo 22 miliardi di euro, il 2,2% in più rispetto al 2016. Agosto si conferma sempre il mese delle ferie per eccellenza, però sale settembre, che adesso viene scelto dal 12,4% degli italiani rispetto al 9,2% che era stato segnalato nel 2016, settembre come mese per trascorrere la vacanza principale. E allora, vacanza principale viene così ricordata, appunto, dicevo, poi un po' su tutti i giornali. Tra l'altro La Stampa aveva una foto notizia in prima pagina che segnala come il Ferragosto sia targato Milano. Povera Roma, il Ferragosto è targato Milano, così riferisce il commento alla fotonotizia. La capitale continua a fare il pieno di turisti, ma la città lombarda, dice La Stampa, si trova già in corsia di sorpasso. Poi molte all'interno, le pagine centrali appunto della Stampa sono dedicate a Roma, a questo confronto Roma e Milano, pagina 12 e 13, Roma regina del turismo ma solo mordi e fuggi, Milano invece con visitatori in crescita anche d'estate. Va bene, e allora è il momento della gita a questo punto, magari con un passaggio prima in edicola per leggere uno dei giornali che vi abbiamo segnalato. Da parte mia ancora un augurio di un ottimo Ferragosto, buon Ferragosto anche a Paolo Corleoni che mi ha accompagnato questa mattina. La rassegna stampa ritorna non domani ma giovedì. Arrivederci.